malacoda.noblogs.org. Primo maggio 2020, Campello sul Clitunno, Umbria. Intervista a Michele Fabiani, la negazione radicale. Ciao Michele, parlaci del tuo libro e cosa ti ha spinto a farlo. Il libro è stato scritto nell'autunno del 2019, quindi è stato un parto abbastanza veloce. Si può dire che in compenso c'è stata una gestazione lunga, perché il libro porta a compimento una serie di riflessioni che andavo facendo da almeno un lustro. La cosa che mi ha veramente spinto a fare questo libro è stata una progressiva insofferenza nei confronti della retorica della complessità. Si fa presto a dire che la realtà è complessa. Il punto è che dietro a questa affermazione, dietro a questo refrain del pensiero contemporaneo per cui la realtà è complessa, non c'è nulla, c'è un vuoto. Se noi diciamo semplicemente la realtà è complessa, non diciamo nulla. Paradossalmente, proprio dicendo a pappagallo la realtà è complessa, la realtà è complessa, noi operiamo il più volgare dei riduzionismi. Riduciamo la realtà a una sua definizione meramente formale, alla definizione circa il fatto che essa è strutturata in maniera complessa, appunto. Io non sono in disaccordo con la tesi che la realtà sia complessa. Io dico che questa tesi però non dice nulla. Io penso che noi dobbiamo spiegare questa complessità. Penso che se vogliamo cambiare questo mondo, che non ci piace, che è ormai palesemente in rovina sotto gli occhi di tutti, con le sue ingiustizie, con le prepotenze del potere, se vogliamo che tutto questo finisca, noi non possiamo limitarci a dire sì, ma il potere è strutturato in maniera complessa, questo mondo è così complesso. No, noi dobbiamo trovare delle formule per affrontare questa situazione, per attaccare questa situazione e quindi per cambiare le cose. Pertanto io penso che bisogna senza paura rivendicare talvolta anche un riduzionismo sfacciato, ridurre questa sedicente complessità a delle sostanze prime che la informano, che ce la possono spiegare e che grazie ad esse la possiamo aggredire. Quanto questa situazione di allarme sociale dovuta al Covid-19 ha condizionato la realizzazione e l'uscita del tuo libro? Il libro, come ho detto, è stato scritto nell'autunno del 19, quindi con le correzioni e la rivisitazione finale era pronto poco prima di questa carcerazione di massa a seguito della pandemia del cosiddetto coronavirus. E quanto ha influenzato? Non molto, in realtà, devo essere sincero. Ovviamente sono fatto di carne, sangue e ossa e quindi umanamente soffro come tutti noi, come tanti di noi perlomeno, questa condizione di prigionia. Ma da un punto di vista dell'analisi teorica, questa situazione non, lo dico con un certo orgoglio, non mi ha influenzato. Posso rivendicare con certo orgoglio che anzi mi ha confermato in talune ipotesi, in molti casi. Faccio un esempio di una delle tesi principali di questo libro. Io a un certo punto descrivo la situazione del dibattito contemporaneo come un vicolo cieco tra lo scientismo cosiddetto e l'esistenzialismo, tra le filosofie anglo-americane, tra la filosofia della scienza e le filosofie continentali, Heidegger, l'esistenzialismo, il marxismo francese e via dicendo. E penso che questo vicolo cieco sia, la denuncia in particolare di questo vicolo cieco sia confermata da quello che sta accadendo, confermata dalle nostre vite, sulla nostra pelle. Prendiamo diciamo, la condizione in cui tutti noi ci troviamo. Siamo da un lato esposti al dominio incontrastato della tecnica, al potere assoluto totalitario degli scienziati. Siamo aggrappati, quasi come durante la guerra, al comunicato dell'EIAR, al comunicato della protezione civile delle 18, che ci dà ordini, che dà ordini persino al governo, e tutti obbediscono senza colpo ferire. Dall'altro lato siamo in una condizione di isolamento esistenziale, ciascuno di noi, tutti chiusi nelle nostre case. Siamo in una condizione che Heidegger definirebbe di deiezione. Siamo letteralmente espulsi dal mondo nelle nostre singole, isolate, alienate prigioni. Ecco, io penso quindi, ovviamente non ho potuto fare questa riflessione sul libro perché il libro è stato scritto poco prima, come ho detto, ma io penso che questa tesi, la denuncia filosofica del finto scontro tra esistenzialismo e scientismo, sia più attuale che mai, e che quindi la denuncia contro il pensiero debole, sia debole nel versante scientista, sia debole nel versante esistenzialista, sia più attuale che mai, che noi dobbiamo ripartire con un pensiero forte, con un pensiero rivoluzionario, con un pensiero che spacca, che rompe, che aggredisce, con un pensiero che nega, con il pensiero della negazione radicale. Nel libro della negazione radicale tu fai una forte critica al pensiero debole e quindi riprendi il cosiddetto concetto di pensiero forte. Vuoi un po' spiegare questo ritorno al pensiero forte? Sì, voglio specificare innanzitutto che la definizione di pensiero debole non è un epiteto offensivo che inventa qualcuno, tantomeno che invento io, ma è un'autodefinizione, nel senso che taluni pensatori deboli in Italia, sul versante cosiddetto in senso lato, in senso molto ampio, esistenzialista, abbiamo il caso di Vattimo, che ha scritto un libro, un saggio che si intitola appunto Il pensiero debole, mi sembra, o giù di lì, insomma. E quindi egli stesso, Vattimo stesso, rivendica il pensiero debole come momento della propria filosofia, del proprio filosofare, del proprio pensare in maniera debole. Dall'altro lato, sul piano dello scientismo, noi abbiamo il rafforzarsi di una serie di ipotesi neoempiriste, antirealiste, antimetafisiche, che rivendicano la debolezza della scienza e dicono che la scienza è tanto più efficace quanto è debole, dice per esempio Van Frassen. E dice questo perché un pensiero forte è un pensiero che si impegna ontologicamente verso delle realtà sostanziali, che afferma, nel caso di un pensiero forte idealista, che esistono le idee, che esiste lo spirito; nel caso di un pensiero forte materialista, che esiste la materia come sostanza prima. E invece la scienza moderna dice che esistono, secondo un cattivo neocantismo, soltanto fenomeni, che esistono soltanto ipotesi intorno ai fenomeni, che esistono soltanto strutture che hanno il solo compito di risolvere problemi, un'immagine scientifica molto affine al pensiero capitalista. L'unico obiettivo è banalmente fare affari, in senso lato in questo caso. E io rigetto tutto ciò e non sono il primo. Io l'ho chiamata una riscossa della filosofia contro il pensiero debole già dagli anni 10 di questo secolo, quindi nel decennio appena passato, insomma. E questa riscossa della filosofia ha preso in un primo momento il sentiero di un ritorno ad Hegel. È molto interessante tutto questo, è molto problematico perché ci sono tanti modi di essere hegeliani, c'erano 200 anni fa e ce ne sono tanto più oggi. E nonostante sia molto problematico tutto ciò, in ogni caso io dico e mi azzarderei a dire che questo non ci può bastare, che tornare ad Hegel non ci può bastare, perché nella grandezza indubbiamente di Hegel noi abbiamo, però io vedo almeno due pericoli speculari. Dal lato il pericolo hegeliano quello più immediato, dello stato forte, dello Stato come massima figura dello spirito oggettivo e quindi della, un pensiero forte che si fonda sull'idea di uno Stato forte, che per me è assolutamente inaccettabile. L'altro lato di questo rischio, di questo ritorno ad Hegel, di questo ritorno al pensiero forte attraverso Hegel, è il rischio invece della sussunzione liberale delle differenze, il rischio dell'Hegel pluralista, dell'Hegel che vuole fare le sintesi, dell'Hegel che vuole che tutte le sensibilità vengano tutelate, non offese, e unite, federate in una unione superiore, in una sintesi superiore. E questo è un principio eminentemente liberale, un Hegel eminentemente liberale, è stato, per carità, è stato assolutamente illuminante questa Hegel. Io penso al dibattito che fa sulla filosofia del diritto, al paragrafo in cui parla del pluralismo religioso, no? Lui ovviamente ha l'obiettivo specifico di salvare la riforma protestante, dice che la riforma è stata buona perché tante più religioni ci sono in uno Stato, tanto più la sintesi finale, l'unità finale sarà potente. Ecco, noi possiamo, diciamo, modernizzare questo Hegel e applicarlo alle correnti politiche. Tanto più libertà c'è dentro lo Stato, tanto più l'unità del mostro democratico sarà forte, sarà potente. Io temo entrambi questi Hegel. Per questo dico che, nonostante la benedetta riscossa della filosofia contro il pensiero debole, questo ritorno del pensiero forte, se si limita a tornare ad Hegel, non ci può bastare. Noi dobbiamo fare un passo in avanti, e è per questo che in questo libro, nella negazione radicale, io mi propongo di partire dalla lettura che un giovane Mikhail Bakunin fa di Hegel. Leggendo il libro troviamo un giovane Bakunin, interprete di Hegel. Vuoi spiegarci meglio? Sì, noi parliamo di giovane Bakunin relativamente, diciamo, giovane filosoficamente, nel senso che siamo al suo primo scritto, La reazione in Germania, 1842. E è uno scritto importante, uno scritto in cui si trova un Bakunin che, come dirà Bonanno, non cercava la sua strada, l'aveva già trovata, ma era una strada ancora tutta da compiere. E in questo momento Bakunin è ancora collocabile all'interno di quella che in senso lato possiamo chiamare la sinistra hegeliana, cioè quegli interpreti insieme a Bauer, a Feuerbach, a Marx, a Stirner, che prendono di Hegel il momento della critica, il momento della negazione, il momento della separazione, e che lo vogliono portare fino in fondo, quindi continuando a dire che tutto verrà negato, quindi anche le strutture dello spirito oggettivo, quindi lo Stato, la società capitalistica e via dicendo. E questo testo, La reazione in Germania, Bakunin ci propone questa dialettica, la dialettica tra positivo e negativo. Bakunin si ispira in maniera abbastanza chiara, io cerco di dimostrarlo, diciamo, in maniera tutto sommato precisa all'interno del libro, a un passaggio della Logica dell'essenza. Nella Logica dell'essenza Hegel dice: tra identità e differenza, la differenza è sia uno dei due poli, sia l'intero movimento. Sia l'intero, cioè tra identità e differenza c'è una dialettica tra due concetti differenti tra di loro. Quindi è la differenza che è sia un lato della relazione, sia l'intero movimento. E questo ragionamento molto difficoltoso, mi viene da dire, ci propone Bakunin, e ce lo propone attraverso il concetto di positivo e negativo. Tra positivo e negativo c'è una dialettica, c'è un rapporto, ed è un rapporto di negazione reciproca, dice Bakunin. Quindi il positivo nega il negativo e il negativo nega il positivo. Cos'è comune a tutti e due? Bakunin dice: non c'è possibilità di conciliazione, è una dialettica senza sintesi, senza compromesso. L'unica conciliazione possibile è proprio il fatto che si negano a vicenda. Quindi la negazione, nel suo scontro con il positivo, è sia un termine dello scontro, sia l'intero, sia la verità stessa dello scontro. E questa è esattamente la dialettica che ispira tutto il mio libro. Io ho trovato illuminanti queste parole di Bakunin, questa interpretazione di Bakunin, che Bakunin fa di Hegel, perché troviamo ancora un Hegel in cui Bakunin individua come il grande filosofo della contraddizione, della negazione, della rottura. E questo elemento è molto importante, avrà un'importanza, diciamo, anche se non riconosciuta, fondamentale nel movimento rivoluzionario tutto. Prendiamo anche il marxismo nella sua versione più classica, marxismo rivoluzionario chiaramente, non la socialdemocrazia. Nella dialettica con la borghesia non c'è il compromesso, il proletariato vince. Ecco, questo tipo di ragionamento molto fine, in cui una parte rappresenta l'intero, in cui non c'è una conciliazione tra gli interessi degli oppressori e degli oppressi, ma una parte, Bakunin dice, la negazione è la verità del rapporto, cioè una parte è l'intero rapporto. Questa dialettica è molto interessante. Bakunin non la svilupperà, avrà ben altro da fare, pochi anni dopo sarà l'eroe della rivoluzione del 48, per la quale verrà arrestato e rimarrà prigioniero per molti molti anni, e poi quando uscirà sarà nell'attenzione dell'internazionale e quindi del movimento anarchico, a quel punto propriamente, diciamo, autocosciente dei suoi principi. Ma questo giovane Bakunin, che si diletta di filosofia, ci dice qualcosa di molto interessante, che purtroppo è stato un po' trascurato persino dagli stessi anarchici. Io sono molto ispirato da questo passaggio e lo ritengo il momento centrale di tutta questa riflessione. E io insisterò molto su tutto il libro della negazione radicale, di questa dialettica, appunto, la dialettica in cui c'è un contendente e anche la verità della contesa, in cui la sintesi non cade a metà, ma la sintesi cade tutta sul lato. E questo è molto rivoluzionario, questo ci tutela dai rischi di un ritorno, come dicevo prima, di un ritorno del pensiero forte, che giustamente vuol tornare, si vuol ribellare al dominio del pensiero debole. Nell'ultimo decennio ha prodotto anche risultati interessanti, ma che, se torna acriticamente ad Hegel, diventa un pensiero pericoloso, un pensiero che può finire in uno stato liberale potente che nella sua grandezza riesce a tenere insieme i due opposti. No, questa dialettica, la dialettica della negazione radicale, è una dialettica nella quale i due opposti stanno insieme, nel senso che uno è il senso stesso dell'opposizione, uno è il soggetto che rivoluziona tutto, una parte risolverà il tutto. Questo credo che sia l'eredità più importante del giovane Bakunin, interprete di Hegel. Quanto c'è di Hegel in te, Michele, e quanto trapela nel libro il tuo amore per Hegel? Io racconto Hegel in questo libro nel capitolo secondo e nel capitolo terzo del mio libro, e distinguo due Hegel in questi due capitoli. Nel primo parlo di un Hegel nihilista, di un Hegel che distrugge il concetto di essere, dicendo che esso è nulla, è puro nulla, non ci dice niente, che distrugge il principio di identità, dicendo che la differenza è superiore all'identità, che la differenza finisce nell'opposizione con l'identità e questa opposizione finisce nella contraddizione. Un Hegel che scava negli abissi del pensiero. Dall'altro lato poi c'è un Hegel che, io dico e uso le virgolette anche nel libro, e le ripeto qua, queste virgolette immaginarie, tradisce questo principio nichilista iniziale chiaramente non in senso biografico, ma nel senso del sistema, cioè dei primi capitoli del sistema. E dopo la contraddizione, a metà, un po' dopo la metà della logica dell'essenza, la contraddizione di Hegel si risolve, perché la negazione, negando ogni cosa, a un certo punto deve negare anche se stessa, e quindi nasce il fondamento. Dal fondamento nasce l'idea, dall'idea nasce la natura, secondo un classico movimento idealista, per l'appunto. La natura trova la sua verità nello spirito, e lo spirito nelle sue varie forme, dello spirito soggettivo, dello spirito oggettivo, con le sue forme più odiose, quello della famiglia, del mercato e dello Stato, e fine nello spirito assoluto, nel suo feticismo religioso. Ecco, questo secondo Hegel, che è la gran parte di Hegel, io non lo condivido. Io lo critico e io lo denuncio come un pericolo della nostra epoca, visto che viviamo in un'epoca in cui c'è voglia di riscossa contro il pensiero debole. E se questa voglia di riscossa si aggrappa a questo Hegel, andiamo veramente male. Invece a me interessa il primo Hegel. Diciamo, possiamo semplificare dicendo che mi interessa una parte e mezzo di 9 del sistema, un sesto del sistema hegeliano. Mi interessa. E mi interessa il primo Hegel, e su questo sono assolutamente d'accordo con Bakunin, che è la vera grande eredità hegeliana è la contraddizione. Ecco, a me interessa l'Hegel fino alla contraddizione. Le strade di Hegel e di Bakunin, in questo caso anche la mia, che sono totalmente d'accordo con Bakunin, si dividono dopo la contraddizione. Perché per Hegel la negazione deve a un certo punto negare tutto, rimane solo la negazione, quindi la negazione nega se stessa e si risale dagli abissi nichilistici nei quali ci aveva accompagnato. Io invece penso che a questa dialettica della sussunzione, questa dialettica della conciliazione, della sintesi, sia molto più affascinante la dialettica della, in Hegel, dei concetti di identità e differenza, in Bakunin la dialettica della negazione radicale, cioè quella nella quale uno dei due contendenti è sia un polo sia la verità dello scontro. E questa è una dialettica che è rimasta in seno alle generazioni di rivoluzionari, cioè per qualunque rivoluzionario la soluzione a una società ingiusta non si pone attraverso un compromesso con questa società, ma un polo, gli oppressi, gli sfruttati, il proletariato, declinatelo come preferite, un polo è sia uno dei due contendenti sia la verità dello scontro. Ecco, questo è l'Hegel che io preferisco approfondire. L'altro lo denuncio come un pericolo, il nuovo pericolo della nostra epoca. Dopo il pensiero debole, molti potrebbero cercare nell'altro Hegel, quello dello Stato forte, una ancora di salvezza nella tempesta che avanza. Nel libro si evidenziano 3 parti ben distinte. Descrivicele. Sì, certamente. Le 3 parti di questo libro sono al loro interno, a loro volta, simmetriche, come la dialettica che propongo. Una dialettica nella quale un polo è appunto la verità dello scontro, come dicevo. E quindi sono a loro volta divisi in 3 capitoli, nei quali uno sembra collocato fuori luogo e invece è l'elemento di precipitazione che ci conduce alla parte successiva. Pertanto, ad esempio, nella prima parte c'è un capitolo primo che di fatto è un capitolo, una sorta di seconda introduzione, è un capitolo di lettura filosofica dell'attualità, e ci sono i 2 capitoli hegeliani. Il secondo, nel quale parlo dell'Hegel che mi piace, se mi consentite questa banalizzazione, cioè dell'Hegel che distrugge, dell'Hegel della negazione e della contraddizione, e nel terzo capitolo parlo dell'Hegel che non mi piace, dell'Hegel che costruisce. E quindi lì finiamo nella seconda parte. Abbiamo un capitolo 4 che parlo di Bakunin, interprete di Hegel, di cui abbiamo parlato poc'anzi, abbiamo un nuovo capitolo che approfondisce il concetto di negazione radicale, in cui questa volta non è Bakunin a parlare, ma azzardo io delle proposte, delle mie teorie personali, sviluppando il concetto di negazione radicale, agganciandole al concetto di negazione radicale. E abbiamo un sesto capitolo che parla di Heidegger e che quindi in un certo senso critica l'esistenzialismo, criticandone il suo quello che viene considerato il suo fondatore. Ecco, Heidegger protesterebbe contro questa definizione. Heidegger dirà sempre: io l'esistenzialismo non lo condivido, non l'ho fondato io, ma di fatti egli è colui che ha costruito i mattoni con cui poi, diciamo, che ha fabbricato i mattoni con cui poi è stata costruita la casa dell'esistenzialismo. È un paradosso che questa post-ideologia di sinistra si fondi su mattoni forgiati dal filosofo che scrisse discorsi per Hitler. Ecco, un grande paradosso della sinistra smidollata e postmoderna. Quindi, nell'ultima parte, mi riaggancio a questo, e nel primo capitolo dell'ultima parte, quindi siamo nel capitolo 7, io parlo della parlo dello Stato e lo contrappongo alla concezione esistenzialista di esistente. Dico che l'esistente è un'affermazione vuota, che l'esistente è organizzato in un certo modo, e quindi propongo la distinzione tra ciò che è e ciò che sta. Ecco, noi dobbiamo combattere in quanto anarchici ciò che sta, cioè questo determinato, concreto stare dell'esistente, questo suo stato. E quindi, per generare appunto la crisi del capitolo sempre fuori luogo, dialogo nel capitolo ottavo con Zizek e con le sue proposte teoriche, e quindi nel capitolo nono vado a delle conclusioni di natura per certi aspetti opposta al capitolo primo, cioè non d'attualità, ma delle diciamo delle visioni di lungo respiro, anche diciamo azzardando conclusioni ontologiche, metafisiche, addirittura cosmogoniche, e sulle sorti di questo mondo, della sua generazione e della sua necessaria distruzione, perché la negazione radicale, è, per essere coerente, per essere davvero radicale, deve finire per negare tutto. E quindi quest'ultima parte giungerà appunto al completamento dell'opera della negazione radicale, alla sua, diciamo, natura eminentemente distruttiva e creativa, diceva sempre Bakunin, quindi al fatto che la negazione ha senso perché è in primo luogo la negazione del nulla. Ecco, perché esistono le cose? Le cose esistono perché la negazione radicale è in origine la negazione radicale del nulla, quindi la creazione delle cose, quindi è una negazione che costruisce. Alla fine la negazione radicale negherà tutto. No, in questo senso, secondo questa dialettica nella quale non c'è conciliazione ma un polo è la verità dell'intero, sarà interessante ragionare ad esempio sulle categorie di un filosofo, psicologo come Lacan, in particolare sulla categoria del non tutto, su questo principio femminile della rivoluzione. malacoda.noblogs.org, il sito che ti fa squirtare acido ialuronico, il sito che ti trasforma in un segaiolo cronico. .org sta per orgasmo, unisciti a noi e ad ogni nostro spasmo.